Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Terza favola della dodicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Diana Meulinger. A ciò che non si perdesse tempo, la signora comandò a Fiordiana che una piacevole e amorosa favola cominciasse, usando però quella brevità che le altre finora usato hanno. Ed ella, con voce tradenti non ritenuta, in tal modo disse. Favola terza. Federico da Pozzuolo, che intendeva il linguaggio degli animali, ha stretto dalla moglie dirle un segreto, quella stranamente batte. Gli uomini savi e avveduti devono tener le loro mogli sotto timore, né patire che elle li pongano in bracche in capo, perciò che, altrimenti facendo, alla fine si troveranno pentiti. Federico da Pozzuolo, giovane e discreto, cavalcando un giorno verso Napoli sopra una cavalla che per avventura era pregnante, menava la sua moglie in groppa, la quale parimente era gravida. Il polledrino, seguitando la madre dalla lungua, cominciò a nitrire, e in suo linguaggio dicea: «Madre, cammina piano, perché essendo io tenerino e solamente di un anno, non posso correndo seguitare i tuoi vestigi». La cavalla stese le orecchie e soffiando con le nari fortemente, cominciò a nitrire e rispondendogli diceva: «Io porto la padrona, che è gravida, e anche io ho nel ventre il tuo fratello. E tu che sei giovane, leggero e senza alcun peso soprappostoti, ricusi di camminare. Vieni se vuoi venire, se non fai come ti piace». Le qual parole, intendendo il giovane, perciò che egli intendeva le voci degli uccelli e degli animali terrestri, si sorrise. La moglie, di ciò maravigliandosi, gli addimandò la causa del suo ridere. Le rispose il marito, aver spontaneamente riso da sé. Ma seppur in qualche caso egli le dicesse la causa di quello, ella si tenesse per certo che le parche subito taglierebbero il filo della sua vita, e così presto se ne morrebbe. La moglie importuna gli rispose che ad ogni modo ella voleva saper la causa di tal ridere, se non che ella per la gola s'appiccherebbe. Il marito allora, constituito in così dubbioso pericolo, le rispose, così dicendole: «Quando saremo ritornati a Pozzuolo, ordinate le cose mie e fatte le debite provisioni all'animo e al mio corpo, allora ti manifesterò ogni cosa». Per queste promissioni, la scelerata e malvagia moglie s'acchietò. Poi che furono ritornati a Pozzuolo, subito ricordatasi della promessa a lei fatta, sollecitava il marito che la dovesse mantenere quanto le aveva promesso. Le rispose il marito che ella andasse a chiamare il confessore perché, dovendo egli morir per tal causa, voleva prima confessarsi e raccomandarsi a Dio. Il che fatto, le direbbe il tutto. Ella adunque, volendo piuttosto la morte del marito che lasciar la pessima sua volontà, andò a chiamare il confessore. In questo mezzo, giacendosi egli addolorato nel letto, udì il cane che disse tai parole al gallo che cantava. «Non ti vergogni tu», disse egli, «tristo e ribaldo. Il nostro padrone è poco lontano dalla morte, e tu che deveresti attristarti e star di mala voglia, canti di allegrezza». Rispose prontamente il gallo: «E se muore il padrone, che ne ho a far io? Sono io forse causa della morte di quello? Egli vuole spontaneamente morire. Non sai tu chi è scritto nel primo della politica? La femmina e il servo sono ad un grado medesimo. Essendo il marito capo della moglie, dee la moglie estimare i costumi del marito esser la legge della sua vita. Io ho 100 moglie e facciole per timore tutte obbedientissime a comandamenti miei. E castigo ora una o un'altra e dolle delle busse. Ed egli non ha salvo che una moglie e non sa ammaestrarla che le sia obbediente. Lascia dunque che egli muoia. Non credi tu che ella si saprà trovare un altro marito? Tal sia di lui, se egli è da poco, il quale desidera ubbedire alla pazza e sfrenata voglia della moglie». Le quali parole intese e ben considerate, il giovane revocò la sua sentenza e rendette molte grazie al gallo, e facendogli la moglie istanza di voler intender la causa del suo ridere, egli la prese per i capelli e cominciò a batterla, e diedele tante busse che quasi la lasciò per morta. Fine della storia. Alle donne che l'ascoltarono, non molto piacque la favola, e massimamente quando intesero il marito avere appieno tamussata la moglie, ma ben si doleano lei esser causa della morte del marito. Poiché tutti tacquero, Fiordiana, per non turbare l'incominciato ordine, in tal guisa raccontò il suo enigma. Vidi una, ne vi paia cosa strana, che una fessa stringeva ed allargava. Un non so che, dopo, lungo una spanna, prima la puma del fesso ficcava. Il tutto dopo, ed ella allegra e piana, con tal stromento assai si sollacciava. Piacquemi questo molto, e tu noi credi, veder tal cosa far con mani e piedi. L'enimma da Fiordiana raccontato diede amplissimo campo di ridere, perciò che, se non tutti, almeno la maggior parte disonestissimo lo giudicarono. Ma Fiordiana, che già s'era accorta per le molte risa male esser giudicato di lei, levatasi in piedi, con grazioso viso disse: «Signori miei, il vostro piacevole ridere mi indica manifestamente che voi stimate il nostro enimma esser sporco, anzi sporchissimo. Ma nel vero, se con le orecchie attenderete, non lo troverete così sozzo come voi lo estimate. Imperciò che altro non dimostra il nostro enimma, salvo che la vaga tessaretta, la quale con i piedi mena le calcole e con le mani fa andar di qua e di là la navicella con la fessura e tira a sé le casse, a ciò che la tela si faccia più fissa». Commendorono tutti il sollevato ingegno di Fiordiana e maggiore di quello che giudicavano lo riputorono, e con esso lei sommamente s'allegrarono. Fine della terza favola della 12ª notte.